ne secondo non vale più a niente, ho passato a pensare. Quando non ci stanno i tram, una carrozza è sempre pronta, nata all'angolo stagione. Caccio in enno crespe giallo, mietta vesta e chiuccarella, con una rosa in de capilla, sai che mi vuole a me. Tarantella la cena, secondo non vale più a niente, ma come o perché. Dice buono mutta antica, che si sconde nei peccati, oggi a te e dimane a me. Io una voga fatta vina, penso male e penso bene, ma sta bocca curallina cerca mia. Mordenne e mo cantanne, se scordato copri fuoco, vo soltanto cammanà. Quando sta a Santa Lucia, signori, ci dice a noi, che c'è steva a casa mia, sono rimasto su.